Buonasera, questa è la trasmissione Mini Pimer che sta per iniziare. La presentazione del libro C'è chi dice no di Chiara Lalli con Loredana Lipperini che si è tenuta alla libreria Tuba in Via del Pigneto lo scorso 7 marzo. Abbiamo fatto una registrazione e oggi nella trasmissione Mini Pimer vi proporremo degli estratti di tale registrazione di questo libro molto importante. Molto bello di Chiara Lalli, che è una bioeticista, comunque una scrittrice che ha già che non è al suo primo libro, ma ha già trattato temi di bioetica, genere, procreazione, maternità. È un libro che parla di obiezione di coscienza, obiezione di coscienza non solamente dei ginecologi. Magari noi femministe, quando sentiamo parlare di obiezione di coscienza, pensiamo all'obiezione di coscienza dei ginecologi sulla legge 194, ma invece in questo libro Chiara Lalli fa una ricostruzione storica di cosa è stata l'obiezione di coscienza all'inizio, come era l'obiezione di coscienza contro la leva, contro il servizio militare, prima del 1972, quando le persone venivano anche incarcerate per le proprie idee, quindi subivano la repressione a causa delle loro idee, come invece questa idea di obiezione di coscienza si sia andata trasformando nel corso del tempo e sia diventata invece una obiezione che sta addirittura, se prima era contro la legge, invece adesso è dentro la legge ed è anche tutelata all'interno della 194. Una particolarità di questo libro, che poi racconterà anche Chiara Lalli, è come prima chi era obiettore di coscienza o obiettrice di coscienza era una persona che ne andava fiera e che quindi spiegava le proprie motivazioni, spiegava per quale motivo non voleva andare in guerra, non voleva fare il militare, attraverso il ragionamento tentava di spiegarsi alla comunità, come invece adesso, soprattutto per Chiara Lalli, per gli obiettori di coscienza che ci sono oggigiorno, soprattutto per la legge 194, sia molto difficile sentire le loro opinioni, capire i loro perché e sapere per quale motivo decidono di obiettare e di essere contro, in questo caso, la legge 194. Cominciamo con un'introduzione, quindi, di Chiara Lalli stessa, con poi un commento di Loredana Lipperini, che era presente anche lei alla presentazione del libro da Tuba, e a voi l'ascolto, l'audio. Nominavi i primi casi, quelli che tra l'altro mi hanno spinto un po' a mettere il naso in questa storia, perché io ricordavo appunto anche dagli anni proprio dell'infanzia, gli obiettori di coscienza erano quelli che andavano in galera, no? Infatti, Si facevano un sacco di questo mesi, no? Ecco, in carceri durissime, anche in carcere militare, con una situazione veramente molto molto faticosa da comprendere. Cioè, com'è che tu dici no, 18 anni, 20 anni, insomma, quella era più o meno l'età, dici no alla divisa e vai in galera. Un po' complicato da capire, e soprattutto è ancora più complicato quando oggi siamo più familiari a pensare, quando ci domandiamo appunto chi sono gli obiettori di coscienza, ci verrebbe da rispondere, probabilmente più o meno tutti qui risponderemmo, sono i medici o gli operatori sanitari che non vogliono essere coinvolti nelle interruzioni di gravidanza. Ecco, questo slittamento, quasi questa vera e propria rivoluzione di questo significato, di questa parola, ma abbastanza sorpresa. E quando ci vai a mettere il naso ti accorgi che insomma sono successe tante cose, soprattutto sono successe delle cose a livello giuridico, ma anche e soprattutto a livello proprio semantico, culturale. E per tornare a quello che mi chiedevi prima, l'aspetto sorprendente è che la maggiore difficoltà che ho avuto è stata proprio con gli obiettori di coscienza di oggi, quelli che rivendicano insomma una coscienza con la C maiuscola, che spesso non si tirano indietro a condannare anche posizioni diverse dalla loro e scelte diverse dalle loro, eppure questa ritrosia nel parlare, no? Allora davvero un po', ecco, questo aspetto è stato sorprendente. Come invece, anzi più che come all'opposto, non ho avuto ritrosia da parte per esempio di una, forse la storia più terribile che ho ascoltato, che è quella di Margherita, che è una donna che ha deciso, se possiamo usare questo verbo, insomma, di interrompere una gravidanza dopo una diagnosi prenatale che ha lasciato emergere una patologia molto grave, lei ha deciso di interrompere questa gravidanza e non ha avuto, non mi ha posto nessun veto, nessun muro per raccontare una storia che, insomma, lo lascio immaginare a tutte voi e a tutti voi, perché non è neanche una questione, insomma, di genere, di impossibilità di capire una sofferenza del genere. C'è un figlio desiderato, una patologia, no, che emerge, e una decisione che è assolutamente sofferta e che è resa 10 volte più terribile dal contesto, perché Margherita entra in ospedale, sta lì 8-9 giorni che non erano un tempo clinicamente necessario, era un tempo venuto fuori dalle attese, dalle vene tra obiettori e non obiettori. Mi fa impressione, tra le tante vicende che ha dovuto subire, che il sabato e la domenica lei ha passato un fine settimana dentro all'ospedale, nessuno è andato neanche a vedere se era viva o morta. E questo non c'entra nulla con la coscienza, anzi, diciamo che c'entra con una coscienza del tutto assente, oltre anche forse a una mancata applicazione della legge, anzi senza il forse, parlo della legge 194, e anche un'indifferenza verso la deontologia, che chiaramente è inferiore come potere alla legge, ma insomma la deontologia medica sconsiglia fortemente di ignorare le persone, no? Tra l'altro, quando ragioniamo di medici, non ci dimentichiamo mai che un medico, se ha scelto di fare quella professione, non ha scelto di essere giudice supremo delle altrui scelte, no? E quindi, per esempio, deve curare anche stupratori e assassini, non si può permettere di dire ti lascio morire perché sei ripugnante, fortuna, dal punto di vista, per fortuna, sì, anche se poi qualche caso è emerso, forse ricorderete tutti che l'anno passato, credo, ci fu un caso di un medico che proprio in sala operatoria si fermò davanti a un paziente che era lì sul tavolo operatorio e scoprendolo, insomma, si accorse che aveva un tatuaggio nazista e quindi chiaro che ci sono situazioni, sì, moralmente molto molto controverse, sì. È chiaro anche che non è solo il medico che si trova di fronte a situazioni moralmente controverse, perché pensiamo appunto alla sperimentazione animale. Mi fa piacere che ci sia Marta qui, perché insomma è una delle persone con cui ho parlato, è una delle persone che mi ha accolto con incredibile, insomma, disponibilità, e mi ha aiutato un po' a capire i meandri e i problemi della sperimentazione animale e come in quel caso si delinea l'obiezione di coscienza, perché un altro problema era anche capire, no, quel significato, come cambia a seconda del contesto e perché in certe situazioni è più grave di altre. In estrema sintesi, poi passo la parola, insomma, a Loredana, che senz'altro ci avrà un sacco di commenti e di aggiunte. Ecco, rispetto alla 194, uno dei nodi più esplosivi è che a un certo punto ci si trova che da un lato c'è una donna che chiede un servizio e dall'altro lato c'è un operatore sanitario che dice io quel servizio non te lo garantisco. Qualcosa dobbiamo fare, cioè, diciamo che non è una situazione che si può lasciare così intoccata, intoccabile, non è consigliabile fare finta di niente, e tra l'altro approfitto anche per dire che non fare nulla non è una scelta moralmente neutrale, questa è un'altra grossa ambiguità che circola, per cui ci sentiamo di poter dire che se non facciamo nulla siamo salvi, mentre invece, ecco appunto, erano gli ignavi, grazie, insomma, quindi aggiungiamo anche forse che c'è tutta una tradizione anche che sia un po' sconvolta e incappottata secondo, insomma, scelte di comodo, perché poi tra l'altro la posizione delle gerarchie clericali sull'obiezione di coscienza, quella che nominavamo prima, era feroce, cioè basta pensare a quello che successe con Luigi Gozzini, Pietro Pinna e Don Lorenzo Milani, che forse è uno dei nomi più famosi, che fu accusato di apologia di reato soltanto perché si era permesso di difendere la scelta di quei ragazzi che avevano detto noi rifiutiamo la leva, rifiutiamo la violenza, e lui aveva difeso questi ragazzi, si è scatenata una condanna feroce e sono stati processati, appunto apologia di reato, oltre quindi che i ragazzi che dicevano la leva andavano in galera, ci andavano pure quelli che provavano a difenderli, quindi questo è un altro passaggio interessante come rivoluzione rispetto ai significati e alle posizioni originarie, no? È come la coscienza abbia proprio oggi cambiato completamente volto ed è quasi un'arma aggressiva, non è più una sfera personale da curare, da conservare, ma è un privilegio che si usa per impedire a qualcun altro di vivere secondo altri valori, secondo altre morali, e la cosa è tanto più grave quando succede in un dominio che ti sei liberamente scelto come quello professionale. Ma io volevo aggiungere alcune cose al discorso di Chiara. In realtà questo incontro è nato da una lunga serie di chiacchierate che Chiara e io abbiamo fatto, cercando di fare un po' il punto su qual è lo stato delle cose. Chiaramente quando si cerca di capire che cosa succede, che cosa ne è del, chiamiamolo per comodità, neo movimento femminista oggi, le risposte sono svariatissime. In questo momento, peraltro, sui media, proprio in questi giorni, in occasione della settimana dell'8 marzo, la tendenza, almeno da parte di alcuni media, diciamo quelli più conservatori, è di dire sì, vabbè, ma ormai tutto a posto, in realtà non c'è nessun problema, c'è il Corriere della Sera che lancia su Twitter la sua campagna di domande, cosa ne pensate dell'8 marzo ora che non serve più a niente? Cioè, già le discussioni di alcuni giornali conservatori sono occupate da libercoli filosofici che parlano del moralismo femminista e queste cose qua. Nonché a difendere i Marò che hanno. Appunto, però in realtà tutto questo ha un nome. Un nome era prevedibile, si chiama Gender Backlash. Ed è praticamente l'onda di ritorno che si verifica sempre quando c'è una crisi economica in atto. Nel momento in cui le questioni femminili, con qualcuno te la devi prendere dicendo sì, vabbè, le questioni femminili adesso non ci interessano, c'è la crisi, grazie, che è esattamente quello che questo governo sta facendo, peraltro, perché le questioni femminili non è il nostro mandato, scusate, adesso noi dobbiamo risanare il bilancio. In realtà il libro di Chiara è fondamentale per capire che è successo molto negli ultimi 2 anni, per quello che riguarda anche 3, la consapevolezza e il ritorno di alcuni discorsi. C'è ancora moltissimo da fare perché ci sono una valanga di punti aperti per quello che riguarda la, chiamiamola anche così per comodità, questione femminile. E non è soltanto, certamente è il lavoro, certamente sono i licenziamenti per maternità, certamente c'è l'assenza di servizi, ma c'è lo svuotamento di un diritto conquistato come era il diritto alla autodeterminazione nella maternità, diritto che si pensava acquisito, previsto per legge, e Chiara Lalli ci va a dimostrare che in realtà questa legge è stata svuotata dall'interno giorno dopo giorno, anno dopo anno. Ci sono ospedali, adesso ce lo racconterà, dove la totalità dei ginecologi è obiettore. La percentuale dei ginecologi obiettori è altissima in questo momento, ma non sono solo i ginecologi. 2 settimane fa alla Casa Internazionale delle Donne mi hanno raccontato che ormai fanno obiezione anche i cardiologi, perché il cardiologo dice no, io l'elettrocardiogramma per la donna che deve abortire non lo leggo, sono obiettore. Fanno obiezione, anche se non potrebbero farlo, questo è un altro punto chiave, i farmacisti, che non si rifiutano di dare la pillola del giorno dopo a chi la richiede, anche se, come Chiara spiegherà, la pillola del giorno dopo non è considerata un farmaco abortivo, ma è un contraccettivo d'emergenza, eppure continua ad essere negata. Su questo manca totalmente l'informazione. A parte alcune iniziative benemerite, come quella dell'Associazione Luca Coscioni, dell'AIED, delle tante associazioni che per esempio hanno messo in rete, e l'ho messo anch'io recentemente, il modulo per denunciare il farmacista obiettore, perché un farmacista che rifiuta di dare quel contraccettivo commette un arbitrio, quindi è imperseguibile, non lo può fare. Il problema è che i ragazzi e le ragazze non lo sanno, molto semplicemente, non sanno di avere questo diritto, non sanno di poter intervenire quando appunto il cardiologo dice no, io obietto, non leggo l'elettrocardiogramma e quindi faccio rimandare l'intervento, in questo caso, fino con conseguenze psicologiche e anche fisiche pesantissime. Insomma, l'idea era anche in questa serata di raccontarci un po' di queste cose, ma di uscire di qui anche con l'idea di che cosa si fa, perché è verissimo quello che Chiara diceva poco fa, non ci si può permettere di non fare niente. Personalmente io avverto pesantemente il rischio, proprio in questi mesi e giorno dopo giorno, che tutto quello che è stato fatto recentemente, anche in anni lontani, venga considerato come qualcosa di folcloristico, qualcosa di buono per un articolo su Gioia o un Elsevier sulla lettura del Corriere della Sera che mette in ridicolo il movimento delle donne, perché questo è quello che sta avvenendo. Si coglie la parte più superficiale, si mente, si dice che le femministe sono interessate solo alle mutande di Belen, e non sono invece interessati ai problemi reali, perché questo è quello che viene detto in questi giorni e viene scritto in alcuni libri, nel momento in cui il movimento nelle sue mille anime, nelle sue mille diversità, si è comunque battuto su tutti i piani, il piano della rappresentazione mediatica, certo, ma il piano del lavoro, il piano della salute e il piano dei diritti. Allora, l'idea era appunto questa, cioè facciamo un po' un check e cerchiamo di capire che cosa succede. Io sono molto contenta che ci siano loro questa sera, non me lo aspettavo, ma sono contentissima, perché con la proposta di legge di iniziativa popolare per il registro delle unioni civili a Roma, notizia passata sotto silenzio da quasi tutti, si dimostra che qualcosa si può fare. E gioco qui anche la mia carta in anticipo, perché io penso che bisogna ripartire, ed è un mio vecchio leitmotiv, probabilmente dalle bambine e dai bambini. Allora, l'Italia è l'unico paese in Europa che non ha una legge che istituisce l'educazione sessuale a scuola. Non avere educazione sessuale e l'educazione al genere anche a scuola significa tante cose, significa non soltanto sapere che esistono i contraccettivi, ma significa non capire come ci si relaziona con il mondo. Allora, visto che, ripeto, siamo l'anomalia europea, siamo un paese dove di contraccezione non si può parlare, l'ultima campagna che è stata fatta era quella di Lupo Alberto sui preservativi, è stata fatta. Allora l'idea è di ragionare, non ovviamente questa sera, però insomma di porre le basi per ragionare su una proposta di legge di iniziativa popolare che chieda l'istituzione di corsi di educazione sessuale a scuola. È qualche cosa che si può fare, è qualche cosa di importante ed è il grado 1 per arrivare ad avere ragazzi e ragazze che non solo siano consapevoli, come si sarebbe detto ai tempi di quella foto di Tano D'Amico, della propria sessualità, però riprendiamola magari questa parola, di come si gestisce, di come si decide o non si decide di avere una maternità, perché io che passo molto tempo a guardare anche nei forum delle ragazzine, quando leggo delle 16-17 anni che sono convinte che il bidet nella Coca-Cola sia un anticontraccettivo e che va anche per la maggiore, un po' mi spavento, perché non parliamo di bambine piccole, parliamo di ragazze quasi maggiorenne, ma questa è la verità. Allora proviamo a dare un piccolo grande gesto concreto, perché come dice Madame Lally, che ha scritto un libro meraviglioso, un libro importante che ci riporta anche con violenza a riguardare in faccia tutto quello che si era dimenticato, non si può stare fermi. Oggi meno che mai. E ripasso la palla. È farmacissimo, non so a quali logiche onestamente. Ma dei numeri da darci su questo? Sui farmacisti è estremamente complicato, perché essendo un fenomeno che nuovo, è clandestino, sì. No, sì. A parte nuovo, insomma, è illegale, no? Quindi non c'è nessuna. Però già dicono che non ce l'hanno. Non l'abbiamo, ce l'ha ordini, si arriverà anche a dire proprio che, sì, tra l'altro voglio dire che non ce l'hanno è una scusa, perché quella che adesso è stata commercializzata come Norlevo o il risultato, insomma, se tu prendi 3, 4, 6 delle contraccezioni, quelle diciamo tradizionali, l'effetto è lo stesso, quindi volendo ci si potrebbe arrivare a quella dose, cioè prima che fosse commercializzata così com'è si faceva così, se ne prendevano 2 e 2 di pillole a dosaggio elevato e l'effetto era esattamente lo stesso, quindi sembra davvero essere una scusa. La domanda, anche una delle tante domande che sarebbe interessante rivolgere a questi farmacisti, è per esempio se vendono contraccettivi o le pillole appunto tradizionali, cioè la contraccezione non d'emergenza, perché appunto se tu decidi che fai obiezione o muovi delle questioni morali su un certo tipo di contraccezione, coerenza vorrebbe, ma forse è ingenuo chiederlo, ma insomma pretenderlo, che dovresti poi assumere lo stesso atteggiamento su tutti gli altri prodotti analoghi. Il problema è che c'è una continua confusione, un po' probabilmente dettata dalla distrazione e dall'ignoranza, un po' da un preciso piano tra appunto l'effetto abortivo e quello contraccettivo. Anche se poi le ricerche smentiscono. E questa era una prima parte della presentazione del libro di Chiara Lalli. C'è chi dice no, la voce che sentivate era quella di Chiara Lalli insieme a quella di Loredana Lipperini, che hanno presentato il libro da Tuba il 7 marzo. Questo è Mini Pimer, continuiamo un po' con gli audio, però prima di ascoltare il prossimo estratto in cui si parlerà di numeri, parliamo un po', immaginiamoci un po' cosa sarebbe un mondo in Italia dove in tutti gli ospedali ci fosse il 100% degli obiettori. È però un'ipotesi che possiamo immaginarci, perché quasi avviene questo negli ospedali italiani, visto che come ci dirà tra poco Chiara Lalli, l'80% dei medici in Italia fa obiezione, e spesse volte ci sono degli ospedali, come per esempio il Gemelli o altri, dove appunto tutti i medici fanno obiezione di coscienza. A questo cosa possiamo rispondere? La Lipperini ha nel suo blog una lista di recapiti, indirizzi, moduli su chi fa obiezione di coscienza, così come hanno fatto dei collettivi a Roma, ma in tutta Italia, hanno mappato, e questa è una cosa che si fa ciclicamente, chi negli ospedali fa obiezione di coscienza, chi, io mi ricordo l'esperienza del 2008 di Pillolissima, avevano fatto poi successivamente un blitz in tutti gli ospedali in cui andavano delle giovani ragazze che dicevano che avevano bisogno della pillola del giorno dopo, ci fu una mappatura successivamente in dei manifesti di chi aveva negato o meno l'obiezione di coscienza aveva negato o meno con obiezione di coscienza la pillola, e chi l'aveva fatta pagare, chi aveva fatto pagare il ticket, cioè, perché poi gli ostacoli non sono semplicemente io non ti do la pillola, io no c'è il ticket, si fa ostruzionismo in altre maniere, no non ce l'abbiamo, vieni più tardi, e una risposta quindi a questo ostruzionismo è la consapevolezza, la coscientizzazione, il conoscere il proprio territorio e sapere a quale strutture recarsi. A proposito di questo incontro, poi la Lipperini giovedì 8 marzo scrisse un post nel proprio blog, Disturbare il manovratore adesso, che in questo post fece un riassunto di cosa emerse dall'incontro. Nell'audio che abbiamo appena ascoltato, una fissa come il leitmotiv della Lipperini è l'educazione sessuale nelle bambine e nei bambini. Un'altra era appunto una mappatura pubblica il più possibile diffusa degli ospedali dove si pratica l'interruzione di gravidanza o dove questa è resa quasi impossibile. E perché è resa quasi impossibile? In quest'audio ascoltiamo i numeri di chi dice no. I minorenni, perché ci casineremmo veramente. Ma io sui consultori volevo soltanto aggiungere quello che è successo a Torino a settembre, che è degno di nota. A settembre era stata fatta la proposta di far entrare sostanzialmente attivamente nei consultori, come sapete, con una liberazione, cioè tutti una serie di gruppi cattolici, però cattolici ultranzisti. La cosa che mi ha stupito in questi giorni è andare a rileggermi quelle cronache e andare a vedere quello che faceva Milizia Cristi davanti ai consultori di Torino, tirando bambole, cioè cose che sembrava di leggere solo nei romanzi di Stephen King, no? Cioè bambole a forma di feto insanguinate addosso alle donne che entravano nel consultorio. Milizia Cristi sono quelli che sono andati a contestare anche i Castellucci per lo spettacolo sul volto di Cristo. Milizia Cristi erano quelli che andavano a tirare le bottigliette d'acqua su Beppino Englaro quando la figlia stava morendo in ospedale. Quindi c'è un rigurgito che però, ecco, questa è la cosa che a me turba. C'è questa impennata di indignazione comune nel momento in cui tutti noi veniamo a conoscenza della legge Tarsia, di Milizia Cristi a Torino, del cimitero degli Angeli appena costituito a Roma, peraltro, di tutta una serie di cose so che ci fanno male, no? Che vedono banalizzare, criminalizzare, si diceva una volta, ma temo che si possa dire anche adesso, qual è la vita degli esseri umani, delle donne e degli uomini. Però poi tutto questo si dimentica, anche rapidamente, perché abbiamo tanti problemi, perché ci viene detto che i problemi sono altri. Io sono molto spaventata dalla politica dei due tempi, lo dico sempre, lo scrivo più spesso possibile, ma quella che si è affermata negli ultimi 3 mesi è: prima risolviamo i problemi economici, poi ci occupiamo dei diritti, mentre le cose vanno sempre di pari passo, devono andare di pari passo, non c'è un tempo per il bilancio del nostro paese e un tempo per i diritti. Nel frattempo però stanno passando, i diritti invece rallentino proprio, no, non solo, stanno passando anche delle cose che vogliono essere fatte passare, delle cose pesanti, insomma, però ecco, in tutto questo io vorrei che Chiara ci desse i numeri, perché mi piacerebbe che voi sentiste quanti sono i ginecologi in questo caso che obiettano in Italia, qual è la percentuale e quali sono le regioni che hanno praticamente una difficoltà massima per ottenere l'interruzione di gravidanza. La media è di oltre il 70%, già questo sarebbe sufficientemente pauroso. Ci sono alcune regioni che raggiungono e superano il 90%, le regioni peggio messe, se ricordo bene, sono tipo la Basilicata, la Puglia credo sia un po' inferiore del 90%, ma si è stessa intorno all'80%, quindi mi viene sempre a dire, ecco, pensiamo che 8 medici su 10 forse rende ancora meglio, no? E quando tu varchi le porte di una struttura ospedale, se c'è un'equipe di 20 ginecologi rischi di trovarne uno o due che sono ginecologi insomma a 360 gradi. Ci sono delle realtà poi come a Roma, se pensiamo al Policlinico Gemelli, in cui non esiste una struttura, un reparto di interruzione di gravidanza, nonostante la legge sia chiara al proposito, cioè la legge dice che l'obiezione personale non è di struttura e che quindi ogni struttura dovrebbe garantire il servizio, però non importa. E poi qualche tempo fa, credo poco più di un mese fa, sono stati presentati dei dati specifici sulla Lombardia e a parte sulle singole strutture di Milano, adesso non ricordo esattamente quanti sono gli ospedali su Milano, ma credo intorno a 12 e c'è un'oscillazione, insomma, ma ci sono realtà come per esempio Como, città in cui c'è un'unica struttura, quindi un unico ospedale dove le donne si possono rivolgere, i numeri per esempio sono 25 l'equipe formata da 25 operatori, 23 sono obiettori di coscienza e quindi di nuovo è anche il contesto che incide sulle conseguenze, chiaramente è anche il contesto delle singole persone, perché quanto più una persona, in questo caso se parliamo soltanto di interruzione di gravidanza, una donna insomma è informata per esempio o ha delle persone che conosce e alle quali può chiedere aiuto, oppure ha dei soldi banalmente per andare a Londra come si faceva prima della 194, parte e decide di non sottoporsi a quello che rischia di essere un vero e proprio strazio, perché poi si parla tanto, ieri in un'altra occasione del genere siamo un po' andati fuori tema su un argomento che tra l'altro mi sta molto a cuore e che è questo dire, questo commentare subito dopo l'aborto, l'interruzione di gravidanza è comunque un trauma. Ora io avrei tante cose da dire su questa connessione necessaria, ma quello che mi viene da dire, restando diciamo più in tema, è che insomma in Italia è veramente facile che sia un dramma se tu entri in un posto e ti prendono a parolacce e stai 6 ore in attesa di prendere il bigliettino per farti soltanto per prendere l'appuntamento, poi prendi l'appuntamento e ti ritrovi magari appunto come casi più da incubo. Prima accennavo alla storia di Margherita, ma ce ne sono purtroppo tante in cui passi 2 giorni in cui nessuno, qui ovviamente ci siamo spostati, passiamo a un aborto che è diciamo non entro i primi 90 giorni ma successivo per altre ragioni, ma insomma credo che non sia piacevole neanche per una donna che con un clima emotivo diverso decide di interrompere la gravidanza, mettiamo 8 settimane, di trovarsi in questo circone di giudizi e di scarsa anche empatia, in cui se ti va bene trovi una persona gentile, se ti va male insomma ti può andare molto male, no? Quindi c'è anche proprio una cultura che secondo me ha toccato e contagiato veramente quasi per osmosi moltissime persone, e credo che anche questo riflesso un po' pavloviano di dire comunque un dramma, cioè mi verrebbe sempre a dire e con questo, cioè anche fosse, no? Concediamo questa premessa, vogliamo peggiorarlo primo e secondo, vogliamo davvero percorrere la strada che è molto abbattuta dell'espiazione? Perché poi non ci dimentichiamo che tutto quello che è successo, per esempio sulla R486, somiglia, puzza di condanna ed espiazione. Ma diciamoci l'epidurale. Che è difficilissimo. Se vuoi possiamo andare anche oltre sui parti cesari, perché io sono molto a cuore, cioè questa cosa del parto cesareo come una delle possibili scelte è demonizzato. Come dici, parto cesareo, c'è la schiera di assatanate che ti dice la scienza è maschia, il parto cesareo pure, e uno dice ma scusa, ma se io ho paura non mi posso fare il parto cesareo, cioè se lo decido io, no? Sono deficiente o posso scegliere? Perché poi anche questa cosa di scambiare, no? Io adesso mi è venuto in mente Lavori Mosso, ma quel libro Madri Selvagge di Tavella e di Pietro, nel dibattito della legge 40, era proprio su questa linea, cioè dire le tecnologie sono un abuso maschilista nei confronti delle donne, tutto questo discorso qui, alla fin fine però queste povere donne erano descritte, raccontate come delle dementi che non erano in grado di decidere, e quindi di fronte per esempio a un problema di salute, di sterilità o di altra ragione per cui potevi avere bisogno o desiderio di ricorrere alle tecniche, se lo facevi eri una specie di fantoccio manipolato e oppresso, no, dagli altri. E però credo che questo sia il modo più terribile di considerare le altre persone, cioè di privarle proprio della possibilità di scelta a priori, no? Senza neanche interessarsi a andare a chiedere. E c'è un sacco di, ci sono un sacco di circostanze in cui le persone si arrogano il diritto e la pretesa di parlare al posto delle altre persone senza neanche appunto interpellarle. Questa cosa anche mi faceva pensare ieri anche su questa questione del dramma, perché in un sacco di questioni non si va a chiedere alle persone. Perché forse richiede troppo tempo, no? Allora si dice, si fanno le dichiarazioni, no? Tipo leggi universali necessarie e ti sei messo in pace la coscienza. Senza nemmeno aver garantito prima il diritto, perché quando dicevo dovrebbe essere un diritto, dovrebbe essere possibile ottenerla in qualsiasi ospedale, naturalmente non è così, non è possibile ottenerla gratuitamente, non sempre, non dappertutto, anzi sempre meno ospedali, e la casistica è minima. E quello dovrebbe essere un diritto più che garantito, perché anche qui la percentuale di parto con analgesia è bassissima in Italia rispetto agli altri paesi. E però mi veniva anche in mente che fa parte del concetto di espiazione di cui parlavi poco fa. Quindi e siamo ancora a Mini Pimera, la maxi trasmissione dove oggi presentiamo il libro C'è chi dice no di Chiara Lalli, l'altra voce che sentite è di Loredana Lipperini. Questa è la presentazione che è stata fatta alla libreria Tuba il 7 marzo e stiamo parlando di obiezione di coscienza, almeno il libro di Chiara Lalli, C'è chi dice no, edito da Il Saggiatore, parla di obiezione di coscienza. Parla di obiezione di coscienza fatta in nome della religione, poi di una sola confessione religiosa, che è quella del cattolicismo, perché non penso che un dottore testimone di Geova possa fare semplicemente il dottore perché vuole negare una trasfusione ad una paziente, così come non si è mai sentito un ristoratore che si rifiuta di servire un pasto ad una donna perché non è sposata e quindi la considera impura o svergognata. Queste sono tutte, diciamo, possibili obiezioni di coscienza che però non sono mai state viste prima. In un estratto precedente ci si chiedeva qual è la catena dell'obiezione di coscienza, cioè allora anche l'accettazione all'ospedale uno dovrebbe dire no vabbè io non ti accetto perché stai per andare a fare un'interruzione di gravidanza, oppure il tassista no io non ti accompagno in ospedale perché che cosa devi andare a fare, ecco, cioè questa catena dell'obiezione di coscienza non si capisce dove si debba fermare per quale motivo, qual è il vero motivo, il reale motivo dei ginecologi all'interno degli ospedali per cui non praticano interruzione di gravidanza, quando poi magari ci sono, perché magari è giusto che il mondo è vario, appunto delle persone che credono veramente e che magari decidono di non fare delle interruzioni di gravidanza, per questo motivo non fanno nemmeno amniocentesi o altre cose, perché comunque ci stanno male, non lo vogliono fare, però ci sono altri e alcuni l'abbiamo anche sentito. Io mi ricordo un interessantissimo intervento di una compagna di Castelli 2 o 3 anni fa, che le compagne di Castelli chiamarono qua e raccontarono la storia di un dottore che aveva fatto che non aveva fatto l'obiezione, che aveva fatto obiezione per un'interruzione volontaria, ma aveva mandato la paziente nella sua clinica privata per poi farla appunto privatamente in una clinica, ma non, poi appunto fu registrato e fu denunciato e non fu l'unico. Quindi queste cose succedono. Interessante l'audio successivo, l'ultimo audio di un interessantissimo dibattito, presentazione che è durato più di 2 ore, abbiamo le registrazioni di tutto quanto e forse, non so, magari anche nel dibattito successivo si potrebbe fare un'interessante trasmissione, così come sarebbe interessante avere Chiara Lalli che ci ripresenta qui di nuovo il suo libro, magari andando avanti e tentando di costruire con lei appunto e capire meglio questo fenomeno dell'obiezione di coscienza nei ginecologi. È interessante quest'audio, stavo dicendo, che stiamo per ascoltare, perché la voce, la parola la prende una ginecologa che è l'unica non obiettrice all'interno di un ospedale. A lei sono state rivolte anche delle domande che magari appunto non sarà lei che risponderà, perché lei le fa le interruzioni di gravidanza, ma per quale motivo allora ci sono dei ginecologi che decidono di decidono di obiettare pure se non sono poi così motivati? Ascoltiamo. Concettuale, filosofico, cioè, ci sono una serie di problemi, cioè, anche è la stessa 194 che si pone come un dilemma e un conflitto intrinseco, perché appunto da un lato garantisce un servizio, dall'altro prevede lo spazio e la possibilità per esentarsi, no? Per svicolare, e poi ovviamente c'è anche un problema di applicazione. Poi c'è una considerazione un po' più ampia e che diciamo cerca di considerare un po' di più la realtà, e la realtà per esempio mi fa venire molta paura rispetto all'ipotesi di andare a modificare la 194, di fare un lavoro parlamentare, perché insomma abbiamo visto quello che è uscito fuori dalle ultime, abbiamo nominato la legge 40, ma c'è questo disegno di legge sulle direttive anticipate, cioè insomma quello che viene fuori dal Parlamento da un bel po' di anni a questa parte è veramente pessimo, quindi l'idea che la 194 venga modificata, non, insomma alla luce della, non credo che la legge sia, la legge nostra italiana sia la più bella legge possibile. Sicuramente ci sono delle cose su cui si potrebbe essere migliorata, ma non vedo come e da chi, insomma. Sì, certo. Sono non obiettore, quindi anzi devo dire che certe volte mi vengono idee che non condivido, perché a volte mi viene voglia di fare obiezione, perché le difficoltà sono tali che a un certo punto dice, ma sai che ti dico, come faccio obiezione, se nel mio ospedale sono l'unica, quindi l'unica? Me la canto e me la suono. L'unica? Sì, sto a San Giovanni, quindi. Sì. Io invece ritengo, cioè vorrei dire che la legge italiana, considerando che è una legge del 78, sì, certo, in ambito sanitario è una legge medievale, perché i tempi di medicina sono molto rapidi, però la legge è una ottima legge, è una legge molto bella, e nonostante sia del 78, oggi nel 2012, è una legge che se fosse applicata per quello che nella legge c'è scritto, io adesso non so se sia la migliore d'Europa, perché non le conosco approfonditamente tutte, ma credo che sia tra le migliori. Il problema non è la legge, io sono d'accordo, cioè, che non va criticata, non va migliorata, infatti l'ho detto solo qui, insomma, in un contesto quasi privato. Poi ogni tanto mi vengono dei dubbi in ospedale, perché ovviamente in certi attacchi di cui forse me la vado a rileggere, è molto articolata, e anche il problema dell'obiezione, io non sono obiettore, ho tanti problemi, ma io penso che in alcuni casi, cioè è un po' difficile, però forse se fosse applicata com'è, il fatto di concedere a qualcuno di obiettare, io lo dico dall'altra parte, forse moralmente potrebbe essere anche giusto, perché se c'è l'obiezione a prendere il fucile, posso capire che se fossi in buona fede ci può essere un operatore, certo, perché gli obiettori ci sono anche in Francia. La Francia, che è uno dei paesi più laici europei e dove l'applicazione, insomma, non io ci sono stata, ci sono degli obiettori, solo che lì è il contrario, cioè l'80% dei medici non è obiettore, quindi io penso che sarebbe giusto concedere questa cosa, e che da noi è strumentale, quindi, cioè, tanti fanno gli aborti al 90° giorno nelle cliniche private di Roma, sono piene di ingressi con aborti spontanei a 8 settimane, non c'è ecografia, non c'è niente, anche il vecchio non può andare là, certo, dove fa un blitz, come... No, sono mascherati da interruzioni di gravidanza, cioè se io sono un obiettore e voglio fare un'interruzione alla mia paziente, ovviamente vado alla Mater Dei, non posso scrivere il registro, magari io sono un obiettore da un'altra parte, che la legge garantisce che venga fatta nelle strutture pubbliche, c'è un motivo, certo, che io basta come ginecologo faccio riguardare la mia paziente dicendo che la diagnosi è un aborto interno a 8 settimane, vi faccio l'aschiamento e vi ho fatto l'interruzione, è piena Roma, obiettore, Roma, ma certo, Roma, Napoli, Genova, c'è stato quello lì che anzi c'aveva un po' di coscienza, perché quando l'hanno scoperto si è buttato alla finestra, probabilmente ha avuto, per cui si fa, si continua a fare, certo, oltre il 90° giorno no, perché certo, è una cosa più complessa e nessuno lo farebbe privatamente, perché è piena di rischi, eccetera, no? Quindi è un po' il fatto che da noi c'è anche l'obiezione, nella legge c'è scritto che nelle strutture pubbliche ci deve essere una certa percentuale, quindi basterebbe che il direttore sanitario, il direttore generale dice qui quanti obiettori, non obiettori servirebbero, 5, fai un concorso, trasferisci quello che sta a Frosinone, che fa l'interruzione a Frosinone, che ci viene domani mattina a Roma, io ho dei colleghi che mi telefonano tutti i giorni che dovrebbero essere trasferiti, quindi so se mi spiego, quindi no, la legge no. Io mi sento di difenderla perché non, è veramente fatta bene, se no della legge ha tutte, ogni articolo è articolatissima. Sono d'accordo appunto che basterebbe l'applicazione che è obiettore, cioè io ho tutti obiettori, però ricordate che è obiettore. Noi ci stimiamo e devo dire che quando ho avuto difficoltà nell'andare via, perché poi certe volte non puoi stare lì 36 ore, lui è stato anche disponibile e mi ha detto ci penso io, quindi non è che il vero obiettore, certo, in realtà se ne frega delle pazienti, il vero obiettore se ne occupa lo stesso, anche perché la legge prevede, poi anche questo non viene applicata, che l'obiettore le deve assistere, certo, tanto come, certo, le altre, come quelle che partoriscono, però lui, siccome veramente uno che non fa diagnosi prenatale, non fa amniocentesi, lei nel libro lo scrive, ovviamente non c'è nome e cognome, ma la persona esiste, non è un medico di fantasia che lei ha scritto così, esiste in carne e ossa, perché lui dice io non posso fare l'amniocentesi e quando consegna alla paziente la diagnosi vai da un'altra parte, quindi lì, ecco, io penso che queste persone vere, certo poi chi lo decide chi è vero e chi no, certo, no, andrebbero salvaguardate, perché poi lui non se la sente proprio, questo posso capirlo, perché io che lo faccio è una parte del lavoro che a volte ti fa star male, cioè non è proprio una cosa, cioè fa star male le pazienti, certo, però insomma non, diventa però, poi anche tanto più gravoso quanto più non è condiviso, no? Poi anche questo era l'elemento preoccupante. Deciso di fare un'interruzione di gravidanza alla moglie perché c'è una patologia cromosomica, però lui è obiettore, anche lì è strano, dice, ma tu non ci hai mai pensato, poi ti capita a te, improvvisamente dovresti dire oddio, forse, e invece lui continua a essere obiettore, quindi voglio dire, poi ci sono delle situazioni. Fare una domanda, ma è legato, cioè la scelta dell'obiezione, credo che su questi numeri poi la scelta, no, cioè mi stranisce, no, che ci sia tutto questo grande numero di ginecologi sentitamente, autenticamente, quindi io no, ma la mia domanda è che impatto ha sulla carriera non essere obiettore, cioè non obiettare, perché poi il problema probabilmente è quello se così tanta gente si dichiara obiettore. Non lo so, io è una cosa che mi sono domandata anch'io negli anni, nel senso poi carriera, oddio, in ospedale va tutto a sta carriera. Non so se io lo voglio fare prima. Cioè, qual è il... Cioè, no, perché... non lo so, cioè in un ospedale religioso sicuramente, sì, perché è ovvio che certo, poi Roma in particolare ha tanti pubblico, ospedali religiosi, no? Quindi è chiaro che lì anche chi magari vorrebbe non essere obiettore deve essere obiettore per forza, e lì sicuramente non ci puoi neanche entrare, neanche dalla porta di servizio. nei grandi ospedali sinceramente è una cosa che io non comprendo, perché poi se fossimo l'80% non obiettori faremmo anche questa parte del lavoro, quindi sinceramente non so rispondere a questa domanda. Cioè, nasce probabilmente nei tempi antichi, dove prima della legge, quindi poi molti di prima della legge sono... Devo dire che forse qualcosa vedo nei... forse, non so se è una speranza, perché noi per esempio adesso abbiamo degli specializzanti che, va bene, vengono da Tor Vergata, non vengono da Gemelli, e io sono specializzante del terzo o quarto anno, quindi diciamo a metà, questi che vengono io glielo chiedo perché mi interessa egoisticamente e poi mi interessa, e devo dire che la maggior parte di questi ragazzi si professa non obiettore. Infatti vengono, voglio dire, però non so se poi inseriti nel contesto lavorativo. Cioè, io quando facevo la specializzazione, che la legge c'era, non se ne parlava proprio, cioè non si parlava neanche nei 4 anni di specializzazione, non si faceva una lezione sull'interruzione di gravidanza, non so, le tecniche, non se ne parlava proprio. Adesso mi dicono questi ragazzi che una lezione la fanno, c'è qualcuno che gli spiega qualche cosa. Quindi forse molto timidamente si può sperare che nei giovani, perché quello che diceva prima, perché c'è l'indignazione e poi si dimentica, a me quello che sembra è che c'è poca indignazione invece anche. Cioè forse in queste manifestazioni la gente indignata si ritrova e sembra tanta, però penso che ci sia poca indignazione in generale. E questa era una voce di una un dottore del San Giovanni, l'unico medico ginecologo non obiettore all'interno della struttura. Un'altra domanda che forse dovremmo porci, l'ultima, è: cosa succederebbe se nell'ospedale, cosa che a volte succede, fossero tutti quanti obiettori? Purtroppo la legge non stabilisce un tetto massimo di obiettori, quindi se tutti quanti obiettassero, all'interno di quell'ospedale non sarebbe garantito il servizio che viene invece garantito in una legge, che è la legge 194. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna obbligare una donna a portare avanti una gravidanza? Probabilmente a molte donne sarà capitato anche questo. Questa era la presentazione del libro di Chiara Lalli, C'è chi dice no, edito dal Saggiatore. La presentazione è stata fatta non qua negli studi del martedì di Onda Rossa, nel martedì autogestito da Femministe e Lesbiche, ma una presentazione del 7 marzo. Speriamo magari di avere Chiara Lalli con noi in studio in futuro. Ci ascoltiamo Anna Calvi, I'll Be Your Man, e si conclude qua la trasmissione Mini Pimer.